nei tramonti dentro gli occhi tuoi e lungo i viali di Parigi o di Los Angeles ritrovo il mondo nei fiori di campo e nei passeri se nevica. Li vedo campare senza niente da mangiare, osservo Dio, lo lascio fare. Certe notti da nevrastenia, da soffocare, apro la finestra e volo via, si fa per dire come la ginestra nata sulla pietra lavica. Mi vedo lottare come mosca nel bicchiere, pure Dio lo lascio fare. La morte non esiste più, non parla più, non vende più mio folle amore. La vita non uccide più i nostri baci, i nostri sogni e le parole. Il tempo non le manca più e non si seccano a lasciarle stese al sole. Stringimi le mani, non è niente che la guerra passerà. Inverni freddi, certi guai mi fan paura, prego per restare ancora qui, mi illudo ancora, poi improvvisamente arrivi tu, sorridi e penso che non ho più timore, lascio correre il dolore, non c'è più